stava soffocando sul letto di morte, pregava chiedendo miglior sorte, ma Dio lo guardò chiedendosi il motivo, e da buon padre il suo tono divenne apprensivo. Lasciami stare, gli disse, voglio vivere ancora ed evitare il supplizio dell'ultima ora. Sentire il dolore, poterlo raccontare, soltandone la voce potermi lamentare. Asciugati le lacrime, Dio gli disse, chiudi gli occhi del malfidato, che ragione ha la vita, lui si chiese, se di questo calvario devo essere grato. Si sente vigliacco, pretende la ragione, per lui fu un inganno, a voi conclusione. Se sapeste ciò che vide dalla giovinezza dei suoi occhi, e cucireste pregiudizi e nascondereste i volti. Asciugati le lacrime, Dio gli disse, chiudi gli occhi del malfidato, che ragione ha la vita, lui si chiese, se di questo calvario devo essere grato.